Allora, sono le 11:20 e noi iniziamo diciamo questa parte di mattinata dedicata alle mobilitazioni che sono in corso all'Università La Sapienza. Lo dicevamo in apertura, oggi previsti una serie di appuntamenti, molteplici appuntamenti che segnalano insomma dei passaggi, delle tappe, della vertenza che ormai da diverse settimane, in realtà da mesi se parliamo dei lavoratori delle pulizie, ma da un po' di tempo ad essi si sono uniti anche i portieri. Oggi è in corso un'assemblea che è finita da poco, che ha coinvolto appunto i lavoratori delle pulizie, un appuntamento sotto al rettorato in presidio che coinvolge anche i portieri, i quali avrebbero dovuto anche scioperare. Poi magari entriamo nel merito proprio della questione dello sciopero, che comunque è saltato perché c'è stata, diciamo, una sorta di intimidazione da parte degli organismi sottoposti alla vigilanza, diciamo, del diritto di sciopero. Dunque siamo in collegamento con un nostro compagno che salutiamo. Ciao. Ciao, pronto? Buongiorno. Allora, il presidio è già iniziato? Sì, il presidio è iniziato appunto da 10 minuti in quarto d'ora, come giustamente ricordavi te, prima è stato preceduto da un'assemblea autoconvocata dalle lavoratrici e dai lavoratori delle pulizie, quindi al di fuori da qualunque organizzazione sindacale, un'assemblea che si è svolta dentro un'aula di giurisprudenza alla quale hanno partecipato un buon numero di lavoratori e lavoratrici, ovviamente scontando anche il fatto di un'assemblea che non era coperta appunto da nessuna sigla sindacale, quindi era un'assemblea non retribuita, quindi chiaramente questo porta tutte le difficoltà del caso, però c'erano molti lavoratori e lavoratrici e soprattutto c'era una forte volontà e consapevolezza rispetto alle prossime iniziative di mobilitazione. A riguardo, a breve insomma vi passo sia un lavoratore delle pulizie che poi un portiere per entrare più nello specifico delle loro vertenze, diciamo solo così per prima appunto di questi interventi per inquadrare un po' la situazione, il fatto che è oramai da ottobre che è in corso all'interno dell'Università La Sapienza una serie di iniziative di mobilitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dell'appalto, da prima partire questo movimento diciamo dagli addetti alle pulizie che hanno subito con il cambio d'appalto a settembre un grave peggioramento delle condizioni, un percorso che ha visto costituirsi un'assemblea appunto auto-organizzata di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse che vedono insieme appunto sia gli appalti dell'università, sia gli studenti, sia altre realtà di lavoro e comunque auto-organizzate presenti nella città, e che ha ottenuto un primo successo a febbraio con l'indizione di due giornate di sciopero per il settore delle pulizie che non si sono poi realizzate perché nel giorno precedente l'azienda ha firmato un accordo in cui accettava tutte le rivendicazioni dell'assemblea. Successivamente chiaramente le aziende hanno tentato di riprendere l'iniziativa e nel frattempo anche gli appalti delle pulizie si sono messi in mobilitazione e oggi hanno indetto questo presidio che doveva essere sostenuto anche con 2 ore di sciopero, ma le pressioni dell'università e dell'azienda sulla commissione di garanzia, cosiddetta commissione di garanzia per il diritto di sciopero, hanno fatto sì che la commissione stessa intervenisse chiamando uno dei lavoratori dell'assemblea e vietando la possibilità di fare sciopero. Ora anche rispetto a questo apriremo una vertenza alla commissione di garanzia perché siamo certi dell'illegittimità dell'intervento, non rientrando nel contratto molti servizi, né il servizio di guardiania dell'università, né i servizi di pubblica utilità. Per cui andremo ad aprire pure questo tipo di battaglia e diciamo in questo percorso che appunto da mesi è avviato si tenterà un ulteriore passaggio in avanti con l'assemblea che abbiamo convocato per venerdì prossimo 25 maggio alle ore 17 a fisica, all'aula Majorana del vecchio edificio di fisica, dove si metteranno a confronto varie realtà del lavoro auto-organizzate, ma anche con le realtà territoriali studentesche, per rafforzare percorsi ideali che abbiamo visto anche rispetto alla recente riforma del mercato del lavoro e alle altre attacchi che subiamo quotidianamente dal governo e in generale dal patronato. C'è una grossa debolezza nel mondo del lavoro a dare una risposta, che nasce proprio dall'assenza di percorsi sedimentati nei luoghi di lavoro, e quindi questa assemblea sarà occasione per mettere a confronto e quindi rafforzare reciprocamente le lotte delle varie realtà, dai lavoratori organizzati di ACI Informatica, quindi del settore metalmeccanico, al collettivo degli operai dello spettacolo, quindi coloro, quelli che montano i palchi, insomma, ben noti e che non hanno peraltro neanche un contratto di riferimento, un contratto nazionale, ai appunto gli appalti della Sapienza, all'assemblea dei lavoratori e delle lotici del Leroy Merlin Porta di Roma, quindi nel settore del commercio, e dovrebbero partecipare anche dei lavoratori del Sant'Andrea, portando anche l'esperienza della loro battaglia per l'internalizzazione, che è poi l'obiettivo principale che stiamo sostenendo qua nella lotta qui all'università, insomma, degli appalti universitari, individuando appunto nell'internalizzazione l'unico processo reale di miglioramento delle condizioni di lavoro, peraltro aprendo in questo anche la possibilità di forti collegamenti con tutto il settore, se pensiamo per esempio delle cooperative sociali o degli appalti del Comune di Roma alle biblioteche e così via. Quindi diciamo l'iniziativa di oggi si situa all'interno di questo percorso che cerca di rafforzare e ricostruire dei rapporti di forza a favore, insomma, dei lavoratori, visto attualmente la difficile condizione che ci troviamo a vivere. Allora, insomma, è sicuramente un sasso importante il vostro, che viene gettato in uno stagno abbastanza paludoso, che è fatto di continua aggressione ed erosione, insomma, alle condizioni di lavoro e di vita di centinaia di migliaia, se non milioni, di lavoratori e lavoratrici nel nostro paese. Chiaramente, insomma, ecco, pensiamo che possa essere considerata questa vostra iniziativa a mo' di esempio, insomma, come antidoto necessario a fronteggiare la situazione attuale, a partire da uno specifico lavorativo e soprattutto, insomma, proprio nel segno dell'organizzazione sociale, che è la strada intrapresa da queste lotte. Scusa, ho sentito l'ultima frase, nel segno dell'auto-organizzazione sociale, insomma, questo dici è talmente vero, insomma, che teniamo presente che sono molteplici, diciamo, i terreni sui quali battersi. Non a caso, insomma, molti di noi saranno presenti sempre il 25 stesso, prima dell'assemblea delle 5, al presidio sotto l'ADAC alle 13, proprio su via Prenestina, proprio perché, diciamo, l'attacco che ci arriva sul salario, sia sul salario diretto ma anche sul salario indiretto sotto forma di assenza dei servizi o crescita del costo degli stessi e così via. Senti, allora, intanto così vi comunico una notizia, magari può esservi anche utile nei comizi del presidio, dato che parliamo comunque di aggressione appunto delle condizioni nel mondo del lavoro, e dobbiamo anche dire che sempre di più, insomma, si fanno pesanti le condizioni di le possibilità di far vedere quello che succede nei luoghi di lavoro. Qualche tempo fa, insomma, qualche giorno fa, c'è stata un'azione intimidatoria all'Alfa a Milano, abbastanza insolita. Oggi a Roma sta succedendo, è successa una cosa altrettanto preoccupante che ha riguardato i lavoratori Nokia Siemens. Sono arrivati da diverse parti, da su, insomma, da Milano anche loro, sono arrivati a Roma e praticamente sono stati chiusi e intimiditi da parte delle forze di polizia, dalla Digos in particolare, che ha chiesto i documenti a tutti perché, insomma, il loro presidio, il loro corteo non era stato autorizzato proprio nelle ore in cui costoro, insomma, stavano avvicinandosi alla capitale, per cui a loro insaputa si sono ritrovati, insomma, a dover fronteggiare questa situazione che è stata molto molto brutta. Quindi ecco, questo dà anche il senso di quanto sta avvenendo, della recrudescenza che è in atto, insomma, anche non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nei rapporti tra i lavoratori che si organizzano e poi il cosiddetto ordine pubblico, insomma. Certo, la repressione si manifesta in tante forme, insomma, non stiamo qua, insomma, però di quante lettere di richiamo subiscono per esempio questi lavoratori d'appalto, in special modo chi più si espone nella lotta, ovviamente lettere di richiamo che vengono rimandate al mittente, ma insomma per dire che l'azione repressiva che va dallo Stato attraverso le forze dell'ordine fino all'ultimo funzionario sindacale è molto diffusa, ma proprio perché sanno bene, insomma, che la situazione di sfruttamento è talmente sempre più pesante che le possibilità che si innescano percorsi reali di conflitto si fa tangibile, insomma. Senti, ti chiedo l'ultima cosa così generale e poi magari sentiamo i lavoratori del settore, certo, delle pulizie, dei portieri, perché dicevamo appunto che da Natale in poi e a febbraio poi, insomma, si sono avute comunque dei segnali di incoraggianti, quantomeno così, nel riconoscimento, insomma, di alcune questioni che i lavoratori delle pulizie chiedevano. Ora, insomma, da questo punto di vista questi risultati sono stati raccolti oppure poi, come al solito, si è passati in una fase, insomma, in cui hanno agito quegli escamotage che poi rendono spesso infruttuosi anche il raggiungimento di questi accordi? No, questi accordi hanno prodotto dei risultati reali, nel senso che per esempio chi aveva l'orario spezzato è stato invece riposto l'orario intero, sono state sistemate le mancanze che c'erano in busta paga e così via, ma subito dopo ecco che adesso l'azienda invece sta ritornando all'offensiva, che cercando di spostare i lavoratori su altri appalti, aumentando notevolmente i carichi di lavoro senza sostituire chi va in pensione, assente, eccetera, quindi diciamo cercando di recuperare attraverso l'aumento dello sfruttamento quanto hanno dovuto cedere appunto a febbraio. D'accordo, allora come facciamo? Mi passi direttamente tu? Ti passo adesso un lavoratore delle portinerie. D'accordo, ciao, grazie. Va bene, a sì. Presto, ciao, grazie. Era che Marulla, sì, ciao. Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, dunque, io direi, insomma, che possiamo iniziare a parlare di questo sciopero, insomma, che era stato annunciato e che poi vi siete stati costretti di fatto a non effettuare. Spiegaci un po' quello che è successo. Sì, diciamo che noi in autotutela abbiamo deciso di revocare lo sciopero perché comunque non andava a incidere su quello che era il senso della manifestazione di oggi. Noi ci eravamo riproposti, chi non era in servizio questa mattina, di ritrovarci sotto il rettorato insieme agli studenti e a tutti i lavoratori per dare un segno tangibile della nostra presenza all'università e contestualmente per chiedere un incontro. Devo dire che a livello di risposta di partecipazione, insomma, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici abbiamo avuto una risposta abbastanza positiva perché siamo numerosi. Adesso ci stiamo dirigendo verso il piazzale del Pratone all'interno della città universitaria e contiamo, insomma, di fare un giro per propagandare quelli che sono i nostri reclami, quelli che sono gli abusi che ci vengono fatti dalle ditte private che hanno appalti all'interno dell'Università La Sapienza, e poi di dirigerci verso, verso il rettorato per chiedere un incontro. E contiamo di farlo a breve, adesso stiamo per arrivare proprio all'interno della piazzale del Pratone e niente, poi ci muoveremo per marciare verso il rettorato. Senti, è stata una sollecitazione aziendale quella di richiedere l'intervento della commissione di garanzia? Esattamente, la National Service praticamente ha mandato una comunicazione all'autorità di vigilanza per lo sciopero intimando di contattarci e di farci revocare questo sciopero che avevamo indetto per oggi, mercoledì 23 dalle 11 alle 13. Noi via di autotutela, onde evitare eventuali ritorsioni o ripercussioni su, sempre a danno dei lavoratori, abbiamo deciso di revocarlo, anche perché, come ho detto prima, non andava ad incidere su quelli che erano i nostri obiettivi che ci avevamo, prefissato, insomma, prima di darci appuntamento questa mattina qui all'università. Ho capito. Senti, dunque, si passa dalla... Vuoi mettere il guantino al megafono? Che gli va di farlo? Si passa? No, siccome sentivo una voce di sottofondo pensavo fosse la tua, scusami. Parecchia gente, qui siamo parecchi. Sì. Meno male. No, sì, dicevo, sì. Si passa dall'irregolarità riscontrata nel modo in cui vengono compilate le buste paga a il mancato rispetto di alcuni livelli di sicurezza nei vostri luoghi di lavoro, alla questione dell'orario spezzato, insomma. Raccontaci un po' quali sono le vostre necessità. Sì, diciamo che anche questo tipo di rivendicazioni sono anche marginali rispetto a quelle che sono le rivendicazioni di cose più gravi, perché molti di noi vengono sfruttati indiscriminatamente dalle aziende che hanno preso gli appalti qua dentro e in realtà ci fanno una serie di ritorsioni per un po' assoggettarci al loro volere. Inoltre denunciamo qui con questa manifestazione tutta una serie di comportamenti illeciti della nostra azienda, che oltre a spezzettare gli orari, non rispettando quello che è previsto dai contratti collettivi nazionali dello statuto dei lavoratori, ha usufruito della cassa integrazione in modo illegale, perché durante il periodo di soffrimento di questa cassa integrazione ha sottoposto i lavoratori a turni di lavoro massacranti con anche turnazioni di lavoro che prevedevano 12 ore di prestazione lavorativa giornaliera e 60-65 ore di prestazione lavorativa settimanale, proprio in barba a tutte quelle che sono le leggi che possono disciplinare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Inoltre hanno assunto persone utilizzando la categoria contrattuale dei contratti a progetto, di fatto compiendo un abuso rispetto a quello che era previsto dal capitolato d'appalto, che richiedeva espressamente che all'interno di questo appalto venissero impiegati i lavoratori inquadrati col contratto multiservizi. Quindi comunque traendo un indebito profitto da questa situazione, perché il costo di lavoro viene comunque abbattuto. Cioè, praticamente loro hanno vinto l'appalto promettendo, quindi mettendo nero su bianco, la clausola che avrebbero assunto solo con contratti in riferimento alla contrattazione nazionale. Esatto. E invece esatto. Assumono con contratti. E noi quello che chiediamo all'amministrazione dell'Università La Sapienza è proprio spiegazioni nel merito. Vorremmo capire com'è che loro evitano di fare i controlli istituzionali a quali sono demandati. La cosa grave è che tutti questi abusi vengono compiuti anche all'interno di un appalto pubblico, cioè i soldi pubblici vengono gestiti da questo ente che è l'Università La Sapienza, che elargisce denari a persone che sfruttano, a persone, aziende, diciamo, che sfruttano i lavoratori in questo modo indiscriminato. Loro sono complici di questi abusi che vengono fatti sui lavoratori e oggi siamo qui proprio per chiedere spiegazioni nel merito, li vogliamo mettere di fronte alle loro responsabilità. Beh, è chiaro, insomma, che in questa situazione l'università rappresenta un po' la stazione appaltante, quindi è inevitabile che debba rispondere responsabilmente di quello che sta succedendo all'interno della situazione che poi raduna settori diversi di lavoratori alla Sapienza. Dopodiché, insomma, voi vi siete anche un po' così, avete cercato di capire chi c'è dietro questa azienda, perché poi quando ci sono irregolarità diffuse molto spesso è anche il caso di capire, insomma, chi regge il timone, per capire anche un po' di che rapporti o di che livelli di protezione gode, non so come dire. Esatto, ma diciamo, si sa che all'interno, quando vengono vengono banditi questi appalti, ci sta una sorta di corsa di tutte le aziende a trovare il proprio referente politico per poter accedere a giudicarsi questi appalti. Quindi penso che sia una cosa scontata che qualcuno ha cercato di favorire queste aziende ed è complice degli abusi che vengono compiuti proprio sui lavoratori, perché altrimenti non si spiegherebbe il perché, malgrado il capitolato d'appalto prevedesse espressamente che questi abusi compiuti nei danni dei lavoratori comportano comunque la revoca del contratto d'appalto affidato all'azienda aggiudicataria, questo non viene fatto. Noi più volte abbiamo fatto presente all'amministrazione attraverso lettere, comunicati, spediti via fax, questi abusi che vengono compiuti, ma non abbiamo mai avuto risposte nel merito. Questo palesemente ci fa capire che loro sono conniventi, che hanno interessi trasversali dentro questa situazione e puntano comunque a percepire magari dei guadagni, non lo so, ma in che forma, è difficile perché sono delle scatole cinesi che loro costruiscono ad arte per poter celare insomma questa logica di profitto che hanno e questa convenienza che hanno proprio a bandire a fare gli appalti pubblici piuttosto che assumere direttamente i lavoratori all'interno della struttura della Sapienza. Eh sì, infatti hai toccato proprio poi il nervo scoperto, insomma, che è proprio questo questa necessità, insomma, anche delle aziende a carattere pubblico, insomma, che governano fondi e risorse importanti come l'università, e l'andazzo, insomma, appunto nell'affidare esternalizzando l'appalto di questi settori. Io volevo però chiederti anche un altro aspetto, insomma, voi avete iniziato questa serie di incontri, avete iniziato a vedervi, chiaramente l'azienda si è anche, immagino, accorta che c'è un po' più di fermento tra di voi. Che tipo di reazione c'è stata? Riguardo a qualcuno di noi, me in particolare, ho iniziato a subire delle ritorsioni, tipo delle lettere di richiamo su fatti contestatemi che sono inesistenti, perché l'azienda attraverso questa strategia conta di incutere timore, insomma, ai lavoratori che ha individuato come essere un po' al vertice di questa situazione. E quindi sì, ha messo in atto una serie di comportamenti che tendono a penalizzare i lavoratori che sono ritenuti dall'azienda responsabili di questa situazione, con affidamento praticamente di turni di lavoro spezzati, quindi tu per fare magari 6-7 ore di lavoro giornaliere devi rimanere in giro 12 ore, hai buchi di 3-4 ore, quando questo è proprio un abuso, non si può fare perché come sappiamo il limite massimo di stacco per una prestazione lavorativa continua è di mezz'ora, invece qui parliamo di 3-4 ore di stacco che viene fatto ripetutamente su più giorni, oppure a loro discrezione ti fanno lavorare 12 ore un giorno, 4 ore l'altro, cioè in barba proprio a quello che è previsto dal contratto, che loro hanno sottoscritto con la Sapienza poi. Per questo oggi noi qui chiediamo contezza all'amministrazione, noi vogliamo sapere il perché loro continuano a permettere che si compiano questi abusi ai danni dei lavoratori. Dovranno venire fuori le responsabilità. E senti, proprio per farle venire fuori, peraltro voi vi siete dati da fare, insomma, nella redazione di una sorta di dossier. Sì, noi abbiamo redatto un dossier molto articolato, allegando anche prove documentali rispetto a quelle che sono le nostre rivendicazioni e l'abbiamo consegnato all'Ispettorato del Lavoro di Via Brighenti, facendo presente tutti i vari abusi che abbiamo subito da quando l'azienda di custodia e guardiania, in caso specifico, si è aggiudicata l'appalto. Mettendo all'interno anche il discorso relativo alla cassa integrazione e a tutti gli abusi che hanno compiuto in base al non rispetto di quello che era la legge in varie situazioni. E adesso attendiamo una risposta pesante del Ministero del Lavoro, in tal senso che dovrà attivarsi e noi faremo in modo che si attivi proprio per evitare insomma che si creino, che continuino questi abusi. Vogliamo mettere un punto fermo a questa situazione perché adesso siamo stufi di subire continue vessazioni e di permettere che i soldi pubblici, i nostri soldi, i soldi che noi versiamo allo Stato attraverso le tasse, vengano date in mano a questi banditi, passati il termine, che si arricchiscono alle spalle insomma dei lavoratori. Te lo passo senz'altro il termine. Allora, senti, descrivici un po' com'è la situazione del presidio. Sentiamo adesso tante voci, tanti slogan, per cui insomma ci sembra una situazione molto viva. Sì, è un gruppo molto nutrito di lavoratori e di studenti. E adesso siamo al piazzale del Pratone, al centro, con uno struscione che recita basta appalti, basta sfruttamento, internalizzazione. È proprio il senso logico di quello che è l'obiettivo che si pone questo movimento autogestito, che è quello di far sì, insomma, che non ci siano più aziende che si arricchiscono alle spalle dei lavoratori e che la Sapienza decida di porre fine a questo scempio assorbendo direttamente i lavoratori. La partecipazione, come ho detto, è stata molto, cioè la risposta sulla partecipazione è stata molto positiva, perché è andata anche al di là delle nostre aspettative. E adesso contiamo tra un pochino, appena verranno letti i volantini di rivendicazione, di spostarci e marciare verso il rettorato per chiedere un incontro alla Sapienza. Già ho notato che hanno chiuso i cancelli, perché come al solito loro tendono a nascondere quelli che sono gli abusi e le complicità che hanno con queste aziende, quindi non sono per la libertà di dialogo, per cercare un incontro e per capire quali sono le problematiche, anche perché lo sanno già, fingono di non saperlo ma lo sanno già. Ma noi cercheremo di avere questo incontro oggi e di portare avanti quelle che sono le nostre istanze, in modo da inchiodarle alle loro responsabilità, chiedere contezza appunto del loro atteggiamento, del perché non hanno mosso un dito rispetto a tutti gli abusi che sono stati fatti. Benissimo, allora senti, facciamo una cosa, noi vorremmo anche sentire ai nostri microfoni un lavoratore delle pulizie, però possiamo fare, visto che voi tra un po' vi muoverete verso il rettorato, facciamo che magari glielo comunichi pure, insomma, che lo chiamiamo tra un po', così magari ci dice anche come sta andando questa situazione di spostamento. Se voi volete posso anche passarvelo adesso. Va bene, allora non so i tempi della radio, come preferite, insomma. No, era per sentire, insomma, come proseguiva il vostro giro all'interno dell'università. Magari se ci sentiamo tra una decina di minuti, un quarto d'ora, insomma, così ci raccontate anche il passaggio al rettorato. Perfetto. Va bene? Ci sentiamo tra un po'. Ok. Grazie, ciao a tutti. A dopo, ciao. Ciao, grazie.